Alle iene ho sempre dato poca confidenza. Sono così rozze, così volgari. Ma tutte insieme saranno una potenza. Date fastidio come polvere, agente polvera, coppie girano, distintivo e tenni il mirino, abusi di potere nel quartiere e le ronde, l'aumento dei controlli di quei musi ti sconvolge, come si svolge l'arresto e il trattamento, fumi un personal, ti vedono e finisci dentro, si mettono, sta divisa tutti uguali, si definiscono autorità ma sono autori dei miei mali, corrotti sono il peggio come quelli di un filmaccio, faccio atteggiamenti che non mi piacciono, sbruffoni, chiedono documenti sorridenti sotto il braccio, quei manga nelli neri e freddi, una mente poco elastica, l'orecchio che non sente, un cervello di plastica compensato con manette, panette sequestrate, poi mai più trovate, date per pagare magari la nuova auto a rate. E tu mi chiedi perché non li rispetti, sai che rispondo, fuck da polizia, mamma netti, se ti guardo male, istintivo gridare, fuck da polizia, e tu mi chiedi perché non li rispetti. Io rispondo, fuck the police, fuck the police. Mamma netti, se ti guardo male, istintivo gridare, fuck the police, fuck the police. Manette strette, collari sui colli, manette ai polsi, pentiti con gli sconti. Bella figura, ti vedi in TV, passo falso per il boss, guarda zio non ci sei più. Lo leggo sul giornale, lo vedo nelle strade, violenza gratuita ed è mio fra che cade. A cerchio con gli scudi, chiudi il tuo reato, il capo copre il crimine, assassino pagato. Sequestri buste e le archivi nelle tasche, perquisa in tasche, pusher in vasche, fuori paletta la pattuglia col controllo, fra la scanca alla weed prendono il decollo, ci fai fiutare dal tuo cane drogato, lo sciacallo usa il fiuto per essere alterato, vivi con la divisa, io contro la tua divisa, duro ghisa con Lisa, stendo con Visa. E tu mi chiedi perché non li rispetti, io rispondo, fuck the police, fuck the police. Mamma netti, se ti guardo male, istintivo gridare, fuck the police, fuck the police. E tu mi chiedi perché non li rispetti, sai che rispondo, fuck the police, fuck the police. Mamma netti, se ti guardo male, istintivo gridare, fuck the police, fuck the police. Oh posa, ehi, hey, ehi, hey, piffe, Red Crew, Jackal Crew nel posto,